quello che mangiano. Un giorno un industriale napoletano ebbe un'idea. Sapendo che la pizza è una delle adorazioni cucinarie napoletane, sapendo che la colonia napoletana in Roma è larghissima, pensò di aprire una pizzeria in Roma. Il rame delle casserole e dei vuoti vi luccicava, il forno vi ardeva sempre, tutte le pizze vi si trovavano. Pizza al pomodoro, pizza con mozzarella e formaggio, pizza con alicioli, pizza con olio, origano e aglio. Sulle prime la folla vi accorse, poi andò scemando. La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, pareva una stonatura e rappresentava un'indigestione. Il suo astro impallidì e tramontò in Roma. Pianta esotica, morì in questa solennità romana. È vero, infatti. La pizza rientra nella larga categoria dei commestibili che costano un soldo e di cui è formata colazione e il pranzo di moltissima parte del popolo napoletano. Il pizzaiolo che ha bottega, nella notte, fa un gran numero di queste schiacciate rotonde, di una pasta densa che si brucia ma non si cuoce, carica di pomidoro quasi crudo, di aglio, di pepe, di origano. Queste pizze, in tanti settori da un soldo, sono affidate a un garzone che le va a vendere in qualche angolo di strada, sopra un banchetto ambulante. E lì resta quasi tutto il giorno, con questi settori di pizze che si gelano al freddo, che si ingialliscono al sole, mangiati dalle mosche. Vi sono anche delle fette di 2 centesimi, per i bimbi che vanno a scuola. Quando la provvista è finita, il pizzaiolo la rifornisce sino a notte. Vi sono anche per la notte dei garzoni che portano sulla testa un grande scudo convesso di stagno, entro cui stanno queste fette di pizza e girano per i vicoli e danno un grido speciale, dicendo che la pizza ce l'hanno col pomodoro e con l'aglio, con la mozzarella e con le alici salate. Le povere donne sedute sullo scalino del basso ne comprano e cenano, cioè pranzano, con questo soldo di pizza. Con un soldo la scelta è abbastanza varia per il pranzo del popolo napoletano. Dal friggitore si ha un cartoccetto di pesciolini che si chiamano fragaglia e che sono il fondo del panino dei pescivendoli. Dallo stesso friggitore si hanno per un soldo 4-5 panzarotti, vale a dire delle frittelline in cui è un pezzetto di carciofo quando ognuno vuol più saperne di carciofi, o un torsolino di cavolo o un frammentino di alici. Per un soldo una vecchia dà nuove castagne allesse, denudate dalla prima buccia e nuotanti in un succo rossastro. In questo brodo il popolo napoletano vi bagna il pane e mangia le castagne come seconda pietanza. Per un soldo un'altra vecchia, che si trascina dietro un calderottino in un carroccio, dà 2 spighe di gran turco bollite. Dall'oste, per un soldo, si può comperare una porzione di scapece. La scapece è fatta di zucchette o melanzane fritte nell'olio e poi condite con aceto, pepe, origano, formaggio, pomodoro ed è esposta in strada, in un grande vaso profondo, in cui sta intasata come una conserva e da cui si taglia con un cucchiaio. Il popolo napoletano porta il suo tozzo di pane, lo divide per metà e l'oste vi versa sopra la scapece. All'oste, sempre per un soldo, si compra la spiritosa. Spiritosa è fatta di fette di pastinache gialle, cotte nell'acqua e poi messe in una salsa forte di aceto, pepe, origano e peperoni. L'oste sta sulla porta e grida: «Adorosa, adorosa, spiritosa!» Come è naturale, tutta questa roba è condita in modo piccantissimo, tanto da soddisfare il più atonizzato palato meridionale. Appena a 2 soldi, il popolo napoletano compra un piatto di maccheroni cotti e conditi. Tutte le strade dei quartieri popolari hanno una di queste osterie che installano all'aria aperta le loro caldaie, dove i maccheroni bollono sempre, i tegami dove bolle il sugo di pomidoro, le montagne di cacio grattato, un cacio piccante che viene da Cotrone. Anzitutto, questo apparato è molto pittoresco e dei pittori lo hanno dipinto ed è stato da essi reso lindo e quasi elegante, con l'oste che sembra un pastorello di Watteau. E nella collezione di fotografie napoletane che gli inglesi comprano, accanto alla monaca di casa, al ladrungolo di Fazzoletti, alla famiglia di Pedocchiosi, vi è anche il banco del Maccaronaro. Questi maccheroni si vendono a piattelli di 2 o 3 soldi. Il popolo napoletano li chiama brevemente dal loro prezzo, Nuroio e Nutrè. La porzione è piccola, il compratore litiga con l'oste, perché vuole un po' più di sugo, un po' più di formaggio, un po' più di maccheroni. Con 2 soldi si compra un pezzo di polipo bollito nell'acqua di mare, condito con peperone fortissimo. Questo commercio lo fanno le donne nella strada, con un focolaretto e una piccola pignatta. Con 2 soldi di maruzze si hanno le lumache, il brodo e anche un biscotto intriso nel brodo. Per 2 soldi, l'oste, da una grande padella dove friggono confusamente ritagli di grasso di maiale e pezzi di coratella, cipolline e frammenti di seppia, cava una grossa cucchiaiata di questa miscela e la depone sul pane del compratore, badando bene a che l'unto caldo e bruno non coli per terra, che vada tutto sulla mollica, perché un compratore ci tiene. Appena a 3 soldi al giorno per pranzare, il buon popolo napoletano, che è corroso dalla nostalgia familiare, non va più dall'osto per comprare i commestibili cotti. Pranza a casa sua, per terra, sulla soglia del basso o sopra una sedia sfiancata. Con 4 soldi si compone una grande insalata di pomodori crudi, verdastri e di cipolle, o un'insalata di patate cotte o di barbabietole, o un'insalata di broccoli di rapa, o un'insalata di citrioli freschi. La gente agiata, quella che può disporre di 8 soldi al giorno, mangia dei grandi piatti di minestra verde, indivia, foglie di cavolo, cicoria, o tutte queste erbe insieme, la cosiddetta minestra maritata, o una minestra, quando ne è tempo, di zucca gialla con molto pepe, o una minestra di fagiolini verdi condita col pomodoro, o una minestra di patate cotte nel pomodoro. Ma per lo più compra un rotolo di maccheroni, una pasta nerastra, e di tutte le misure e di tutte le grossezze, che è il raccogliticcio, il fondiccio confuso di tutti i cartoni di pasta, e che si chiama efficacemente monnezzaglia, e la condisce con pomodoro e formaggio. Il popolo napoletano è goloso di frutta, ma non spende mai più di 1 soldo alla volta. A Napoli con 1 soldo si hanno 6 peruzze un po' bacate, ma non importa. Si ha 1/2 chilo di fiche, un po' flosci dal sole. Si hanno 10 o 12 di quelle piccole prugne gialle, che parabbiano l'aspetto della febbre. Si ha 1 grappolo di uva nera, si ha 1 poponcino giallo, piccolo, ammaccato, un po' fradicio. Dal venditore di meloni, quelli rossi, si hanno 2 fette, di quelle che sono riusciti male, vale a dire biancastre. Ha anche qualche golosità altra, il popolo napoletano, lo spassatiempo. Vale a dire i semi di melone o di popone, le fave e i ceci cotti nel forno. Con 1 soldo si rosicchia 1/2 giornata. La lingua punge e lo stomaco si gonfia, come se avesse mangiato. La massima golosità è il soffritto. Dei ritagli di carne di maiale cotti con olio, pomodoro, peperone rosso, condensati, che formano una catasta rossa, bellissima all'occhio, da cui si tagliano delle fette, costano 5 soldi. In bocca sembra dinamite. Questionario. Carne in umido? Il popolo napoletano non ne mangia mai. Carne arrosto? Qualche volta la domenica o nelle grandi feste, ma è di maiale o di agnello. Brodo di carne? Il popolo napoletano lo ignora. Vino? Alla domenica qualche volta, l'asprino a 4 soldi il litro o il maraniello a 5 soldi. Questo tinge di azzurro la tovaglia. Acqua sempre è cattiva. Napoli è mille paure. Napoli è voce da creatura che sale chiaro chiaro. E tu sai che non si sola. Napoli è non solo amare. Napoli è dolce. Mare. Napoli la carta sporca e nessuno se ne morto e ognuno aspetta giusto. Gli altarini. Vi meravigliate degli altarini, vi scandalizzate della piccola processione di donne scalze e scapigliate che portano un'immagine della Madonna e salmodiano. La superstizione del popolo napoletano. Oh, povera gente che è vissuta così male, con tanta bonorietà, che muore in un modo così miserante, con tanta rassegnazione. La superstizione di questo popolo ha fatto una dolorosa impressione a tutti. La credevate cessata la superstizione? Come potevate crederlo? Non vi rammentate più nulla, dunque? Nel colera del 1865 vi furono processioni e pubbliche preghiere. Nel colera del 1867, più tremendo, più straziante, che veniva dopo la guerra, da tutte le parrocchie uscirono le immagini della Vergine e quelle dei santi protettori. Le processioni si incontravano per le strade, si mescolavano. Era tutto un mistero medievale e meridionale. Come oggi Umberto di Savoia le ha incontrate. 17 anni fa le ha incontrate il Gran Vittorio Emanuele. Nella spaventosa eruzione del 1872, per 3 giorni di seguito, una lava ha minacciato Napoli. Le popolane sono andate al Duomo per avere la testa di San Gennaro. La volevano portare in giro per far arrestare la lava. Per un momento i nobili custodi delle reliquie e i canonici della cattedrale non la dettero loro. Il quarto giorno ne uscì il sole, non uscì. Una nuvola fittissima di cenere copriva Napoli. Cominciava a piovere cenere, come a Pompei. Le popolane in tutti i quartieri fecero delle processioni piangendo, gridando in una tenebre lugubre. Il colera del 1873, più mite certo, ma sempre vivissimo, nei 4 quartieri popolari fu portata in processione la Madonna dell'Aiuto ai Banchi Nuovi, la Madonna di Portosalva a Porto, il Gesù alla colonna della chiesa nel vicolo dell'Università. Oh, che memoria labile abbiamo tutti! E la vita quotidiana? Solo a guardarsi attorno, osservare quello che accade, anche superficialmente, nessuno poteva lusingarsi che la esaltazione religiosa del popolo napoletano fosse cessata. Di questi altarini, con un paio di ceri innanzi, ve ne sono ad ogni angolo di strada, nei quartieri popolari, in certe tali feste. Li fanno i bimbi, è vero, ma le madri sorvegliano. Le sorelle grandi chiedono l'obolo ai passanti, un po' ridendo, un po' pregando. Le feste più grandi, con lampioncine a lautino e festoni variopinti, il popolino si quota per un anno e un vicolo la vuol vincere sull'altro. Cadono risse, corrono coltellate per questa emulazione. Queste emulazioni sono pittoresche e fanno andare in estasi gli artisti, razza di egoisti, che se ne stanno immersi nella contemplazione del loro Buddha, che è l'arte. Ancora. Quando una donna si salva da una grande infermità, per ringraziare Dio scioglie il voto di andare a cercare l'elemosina per tutte le case del suo quartiere. Sale, scende con le gambe malferme, con la faccia scialba, ricevendo rifiuti secchi e porte battute in faccia. Non importa, bisogna sopportare il voto. Tutto quello che raccoglie va alla chiesa. Quando un bimbo è malato, lo votano a San Francesco. Quando risana, lo vestono da monacello, con una tonaca grossolana, col cordone, coi piedini nudi nei sandali e con la chierichetta rasa. Chi non ne ha incontrati nei quartieri popolari? Del miracolo di San Gennaro fate le alte meraviglie? Quelle vecchie abitanti del Molo, che si pretendono suoi discendenti, che invadono l'altare maggiore, che non lasciano accostarsi nessuno, gridano il credo mentre si attende il miracolo, e ogni volta che ricominciano alzano il tono, sono a lupo, che si dimenano come ossessi, che lo gratificano di vecchio rispettoso, vecchio impertinente, faccia verde, che stupiscono. E il piede di Sant'Anna che si mette sul ventre delle partorienti, che non possono procreare il figlio. Vi è l'olio che arde nella lampada, innanzi al corpo di San Giacomo della Marca, nella chiesa di Santa Maria la Nuova, che fa guarire i mal di testa. Vi è il crocifisso del Carmine, che ha fatto sangue dalle piaghe. Vi è il bastone di San Pietro, che si venera nella chiesa sotterranea di Santa Sprema, primo vescovo di Napoli, ai mercanti. Vi è l'acqua benedetta di San Biagio ai Librai, che guarisce il mal di gola. Vi sono le panelle, pagnottine di pane benedette di San Nicola di Bari, che buttate in aria nel temporale scampano dalle forche. Vi sono centinaia di ossicini, di pezzetti di velo, di pezzetti di vestito, di frammenti di legno che sono reliquie. Ogni napoletano porta al collo o sospeso alla cintura o ha sotto il cuscino un sacchettino di reliquie, di preghiere stampate. Questo sacchettino si attacca alle fasce del bimbo appena nato. Credete che al napoletano basta la Madonna del Carmine? Io ho contato 250 appellativi alla Vergine, e non sono tutti. 4-5 tengono il primato. Quando una napoletana è ammalata o corre un grave pericolo, uno dei suoi si vota a una di queste Madonne. Dopo scioglie il voto, portandone il vestito, un abito nuovo benedetto in chiesa, che non si deve smettere se non quando è logoro. Per l'addolorata il vestito è nero, le nastri bianche. Per la Madonna del Carmine color pulce coi nastri bianchi, per l'Immacolata Concezione bianco coi nastri azzurri, per la Madonna della Saletta bianco coi nastri rosa. Quando non hanno i danari per farsi il vestito si fanno i grembiuli, quando mancano di sciogliere il voto aspettano delle sventure in casa. E il sacro si mescola al profano. Per aver marito bisogna far la novena a San Giovanni, 9 sere, a mezzanotte, fuori un balcone e pregare con certe antifone speciali. Se si ha questo coraggio, alla 9a sera si vede una trave di fuoco attraversare il cielo, sopra vi danza Salomè, la ballerina maledetta. La voce che si ode subito dopo pronuncia il nome del marito. Anche San Pasquale, protettore delle ragazze, da marito, bisogna dirgli per 9 sere l'antifone. O beato San Pasquale, mandatemi un marito, bello rosso colorito, come voi tale e quale, o beato San Pasquale. Anche San Pantaleone protegge le ragazze, ma in diverso modo. Fa loro i numeri del lotto, perché si facciano la dote e si possono maritare. 9 sere bisogna pregarlo, a mezzanotte, in una stanza, stando sola col balcone aperto e la porta aperta, e dopo Iave e i pater digli quest'antifono: San Pantaleone mio, per la vostra castità, per la mia verginità, datemi i numeri, per carità. Alla 9a sera si ode un passo. È il santo che viene. Si odono dei colpi, sono i numeri che dà. Alla 4a o 5a sera di questi strani riti, le ragazze sono tante esaltate che hanno delle allucinazioni e cadono in convulsioni. Alcuni affermano di aver visto o di aver udito qualche cosa alla 9a sera, ma che mancò loro la fede e il miracolo non è riuscito. Tutte le superstizioni sparse per il mondo sono raccolte in Napoli, ingrandite, moltiplicate. Noi crediamo tutti quanti alla iettatura. Non parliamo dell'olio sparso, dello specchio rotto, del cucchiaio in croce col coltello, della sottana posta alla rovescia che porta sfortuna, dei soldi mercati, globi, dei ragni, degli scorpioni, della gallina, superstizioni vecchie. Chi se ne occupa? I napoletani credono ancora alle sibille. Vi è una chiara stella alle 100 strade, verso il corso Vittorio Emanuele. Vi è una siegrazia al vicolo Mezzocannone, famosissimo, e molte altre minori. Si compensano 50 centesimi, 2 lire, 5 lire. I napoletani credono agli spiriti, lo spirito familiare napoletano che circola in tutte le case, il monacello. Un bimbetto vestito di bianco quando porta fortuna, di rosso quando porta sfortuna. Una quantità di gente mi ha affermato di averlo visto. In piena Napoli, alla salita Santa Teresa, una bellissima palazzina non si affitta mai. Per 20 anni l'ho vista chiusa, poiché abitata dagli spiriti. Il napoletano crede agli spiriti che danno i numeri, crede agli assistiti. Gli assistiti sono una razza di gente stranissima, alcuni in buona fede, altri scrocconi che mangiano poco, bevono acqua, parlano per enigmi, digiunano prima di andare a letto e hanno le visioni. Vivono alle spalle dei giocatori, non giocano mai. Talvolta i giocatori delusi bastonano l'assistito. Poi gli chiedono perdono. Anche i monaci hanno le visioni. Ve n'era uno famoso a Marano presso Napoli, vi andava la gente in pellegrinaggio. Un altro, giovane, dal convento di San Martino, anche famoso. Talvolta i giocatori sequestrano il monaco, lo battono, lo torturano. Uno ne morì. Prima di ispirare pronunziò dei numeri. E giocarono, uscirono a mezza Napoli, vinse al lotto, poiché un giornale aveva riportato questi numeri. Il popolo napoletano, specialmente le donne, crede alla stregoneria. La fattura trova apostoli ferventi. Le fattucchiere o streghe abbondano. Una moglie vuole che suo marito, che va lontano, le resti fedele? La strega le dà una cordicella a nudi. Bisogna cucirla nella fodera della giacchetta del marito. Si vuole avere l'amore di un uomo? Fattucchiera brucia una ciocca di capelli vostri, ne fa una polverina con certi ingredienti. Bisogna farla bere nel vino, l'uomo indifferente. Si vuol vincere un processo? Bisogna legare moralmente la lingua dell'avvocato contrario, fare 15 nodi ad una cordicella, chiamare il diavolo uno scongiuro terribile. Si vuol far morire un amante infedele? Bisogna colmare un pignattino di erbe velenose, metterla a bollire dinanzi alla sua porta nell'ora di mezzanotte. Si vuol far morire una donna, una rivale? Bisogna conficcare in un limone fresco tanti spilli che formino un disegnino della sua persona e attaccarvi un brano del vestito della rivale e infine buttare questo limone nel suo pozzo. La fattura ha uno sviluppo larghissimo, letteratura strana, talvolta ignobile, di scongiuri e di preghiere, ha una classificazione per le anime timide e per le anime audaci, ha una diffusione in tutti i quartieri. Ha un soccorso per tutte le necessità sentimentali e brutali, per tutti i desideri, gentili e cruenti. Ecco tutto, cioè, non è tutto. Esagerate 20 volte quello che vi ho detto. Forse non sarete nel vero. Questo guazzabuglio di fede e di errore, di misticismo e di sensualità, questo culto esterno così pagano, questa idolatria vi spaventano? Vi dolete di queste cose degne dei selvaggi? E che ha fatto nulla per la coscienza del popolo napoletano? Quali ammaestramenti, quali parole, quali esempi si è pensato di dare a questa gente così espansiva, così facile a conquistare, così naturalmente entusiasta? In verità, dalla miseria profonda della sua vita reale, essa non ha avuto altro conforto che nelle illusioni della propria fantasia, o altro rifugio che in Dio.